versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon lunedì 11 di novembre, San Martino, questo 11-11 ad alcuni evoca chissà che cosa, no, è un giorno come un altro, un inizio di settimana, è un inizio di settimana in cui gli emendamenti entrano nel merito della legge di stabilità, e già in queste prime ore ce n'è per tutti i gusti, avrebbero innalzato, vediamo, la soglia per non pagare un euro di IRPEF da 8.000 euro a 12.000 euro, e su questo sarebbero d'accordo destra e sinistra. Dopodiché sulla tassazione immobiliare, ricordate la Trisa, fatta di Tare più Tasi, c'è un'ira di Dio di centinaia di emendamenti e il relatore del PDL vuole cancellare la componente, quella sui servizi, introducendo un'altra imposta che si chiama TUC. Io ero rimasto al fatto che il TUC era un salatino della Saiva e vogliono mandarcelo per traverso, urge uno sciopero della fame, per così dire. Detto tutto questo, oggi, a proposito degli incentivi e delle norme che la politica promette sempre di fronte alla crisi, alle imprese e al lavoro, parliamo invece di un caso concreto che segna una singolare e, devo dire, intollerabile fattispecie di segno esattamente opposto. Cioè siamo in presenza dello Stato che retroattivamente comunica alle imprese che gli incentivi che erano stati disposti, che erano vigenti, per riassumere lavoratori disoccupati che avevano perso il lavoro nelle piccole imprese quindi soprattutto quelle artigiane e commercianti, improvvisamente un po' di giorni fa, il 25 di ottobre, il direttore dell'INPS emana una circolare e dice che quegli incentivi le imprese le devono restituire, li devono restituire. Allora, siccome il caso ha una sua, secondo me, emblematica valenza della retroattività dello Stato che si rimangia gli impegni proprio a quel settore della piccola impresa, artigiana e commerciante, qualcuno oggi ha sentito la giornata nazionale per la legalità di Confcommercio e di come il presidente di Confcommercio smentisca l'ottimismo prevalente, che Enrico Letta che dice misuratemi nel 2014 quando la ripresa ci sarà. Ecco, proprio in questo settore cade questo esempio incredibile di cui vogliamo parlare oggi e abbiamo deciso di parlarne chiamando ai microfoni colui che più di tutti nel settore dell'artigianato e del commercio ne ha fatto in pochi giorni una bandiera, perché ha sollevato la questione, ha incontrato interlocutori politici ed è qui per ricordarci e spiegarci esattamente di che cosa si tratta. È con noi Mario Pozza, che è il presidente di Confartigianato di Treviso. Io lo ringrazio. Buon pomeriggio, presidente. Buongiorno a voi, grazie. Allora, cerchiamo di spiegare a chi non è addetto ai lavori di che cosa stiamo parlando. Cioè, per 20 anni, dal 93, c'è stato per il settore artigianato e commerciale una lista di mobilità ad hoc, per così dire, che era riservata a chi perdeva il lavoro in queste imprese. Poi interviene la legge Fornero che dice no, nuovo regime, quindi nel nuovo regime questa cosa deve venir meno. Nel frattempo però per le imprese le assunzioni continuavano con quelle liste di mobilità e con gli incentivi che erano previsti, che erano uno sgravio rispetto al 30% del lordo dei contributi, 10%, e invece adesso lo Stato dice no, ce li restituite indietro, è così. È proprio così. Purtroppo questo vale solo per la piccola mobilità, perché per la mobilità della grande impresa questo non accade. Anzi, siamo al paradosso. Addirittura è stata finanziata fino al 2016, hai capito? Quindi noi, anziché poter usufruire cioè, di questa legge, ci troviamo nella condizione che i dipendenti delle imprese industriali sono favoriti e le imprese industriali hanno gli sgravi. Noi addirittura a darli indietro. Siamo a un paradosso che ormai effettivamente è da Repubblica delle Banane, capisce? Mai un assetto retroattivo è stato così predisposto per la nostra azienda, capisce? Oh, ma il problema deriva dal fatto, dice l'INPS e il Tesoro, perché so che su questo si è pronunciato anche il viceministro dell'economia Baretta, che pure è un ex segretario confederale della CISL, quindi non dovrebbe essere poco sensibile alle necessità dei lavoratori disoccupati, che in questo caso trovano un nuovo impiego con incentivi che sono quelli disposti dalle leggi. Eppure anche Baretta ha detto, alla vostra richiesta, beh insomma l'INPS ha mica torto, perché questa legge non era stata rifinanziata, è così? Sì, l'INPS non ha torto, per carità, l'INPS esegue quello che dice il governo non l'ha finanziata, ma le cito l'assurdità di questa legge. Se questa legge era stata finanziata fino al 31 dicembre 2012, i benefici non sono solo fino al 2012, i benefici per chi assumeva con questa legge erano di 12 o 18 mesi in base se tu poi confermavi l'assunzione oppure no. Quindi con contratto determinato erano 12 mesi di benefici, quindi tutto il 2013. Se invece io lo assumevo a tempo indeterminato erano per 18 mesi. E quindi naturalmente se un'impresa delle sue, di Confartigianato o del Treviso, come in tutta Italia, avesse regolarmente, come per fortuna tanti hanno fatto, assunto da quelle liste di mobilità fino al 30 dicembre del 2012, quando la legge era perfettamente vigente e coperta, è ovvio che intendeva che gli incentivi da quel giorno in poi sarebbero andati avanti per tutti i mesi, 12 o 18, che la legge prevedeva. È così? È questo, noi chiediamo che ci spetti quello che ci deve il governo, lo Stato, ha capito? Non chiediamo di più, noi non abbiamo fatto assunzioni dopo il 2013. Però purtroppo questo è lo Stato, chiede di essere a noi seri, corretti, onesti, e poi è lui per primo che non è corretto. Tra l'altro è un strumento che, come ha detto lei in apertura, funziona da 20 anni. E quindi perché si è andati a cambiare questo tipo di strumento che andava e funzionava bene? Tra l'altro io avevo la possibilità, scegliendo in questa lista di disoccupati, le professionalità che interessavano l'impresa, capito? A differenza di una lista che poteva esserci dentro di tutto e di più. Qui ognuno in base alle proprie esigenze poteva scegliere, e i risultati sono positivi. Perché? Perché questo ha creato occupazione. Non si capisce perché uno strumento che funziona lo si vada a cambiare. Nella vostra realtà questo era uno strumento regolare, ordinario, cioè solo a Treviso centinaia di volte si è fatto ricorso a questo, pescare da questa lista? Nella nostra realtà funzionava, ma il fatto è che questo ha funzionato, e l'ultimo, quello della legge Giovannini, che è venuta fuori la polemica pochi giorni fa, non funziona, perché ci sono troppi pali e paletti e troppe condizioni, capisce? Io assumo un dipendente non per decreto, se ho bisogno, se ha la professionalità e se questo qua riesce a dare all'impresa quello che l'impresa si aspetta. Non siamo un'impresa industriale dove c'è una catena di montaggio che devo mettere un pezzo, capito? L'impresa artigiana, l'impresa piccola commerciale, tu hai un rapporto col tuo dipendente, collaboratore, quotidianamente, e quindi non è che sia un rapporto congelato alla catena. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47 prime 28 secondi. Grazie anche a chi ci scarica in podcast. Continuate comunque a scaricare poi tutto quello che vi piace di Radio 24, come ovvio. Stiamo parlando in questo inizio di settimana, quando la legge di stabilità, con i promessi incentivi dei settori produttivi, oggi abbiamo avuto un dato deludente sulla produzione industriale, altro che ripresa, mancano ancora 25 punti percentuali alla produzione industriale pre-crisi. E detto questo, oggi ci occupiamo di questo particolare caso senza precedenti dell'INPS, che chiede indietro gli incentivi che, in vigenza piena di una legge andata avanti per 20 anni, che premiava, sgravava di un 20% di contributi obbligatori le piccole imprese che assumevano dalle liste di piccola mobilità coloro che avevano perso il posto di lavoro nelle imprese piccole, artigiane e commercianti, adesso l'INPS se ne esce fuori e dice no, voi ce li dovete dare indietro, perché identifica il venir meno della norma e quindi dell'incentivo, invece con l'ultimo giorno in cui quella legge, essendo in vigore, prevedeva per 12-18 mesi gli sgravi. E oggi quelle imprese che hanno ridato lavoro nella crisi, approfittando di questo incentivo, si vedono allo Stato che fa toc toc, no, tu me li restituisci, io me li riprendo, anzi, perché altrimenti tu diventi un moroso, vai in cartella esattoriale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Presidente Pozza, quando avete iniziato a parlarne dopo la circolare con gli interlocutori politici, che tipo di reazioni avete ricevuto? Ma all'inizio siamo stati un po' snobbati, poi il problema non è solo un problema di Treviso, ma un problema nazionale, indubbiamente hanno iniziato a preoccuparsi. E abbiamo avuto delle assicurazioni dai politici, dalla senatrice Bonfrisco, per dirle, o dal sottosegretario Berretta, eccetera, che l'interessamento ci sarà, però che non c'è niente di promesso e di garantito. Perché per il momento noi di emendamenti depositati alla legge di stabilità per rifinanziare questo fondo non ne abbiamo notizie. Ecco, non abbiamo notizie. Poi, tra l'altro, con 3.000 emendamenti, si figuri lei, alla fine metteranno la questione di fiducia e noi ce le metteranno a palazzo. Ma qui pianteremo un chiodo perché non gliela perdoneremo, capisce? È un diritto acquisito e andando anche in tribunale certamente porteremo a casa la sentenza a favore nostro. Però il fatto è, vede, che in questa questione l'assurdità è che il sindacato non ha aperto bocca. Anche qui ci sono di lavoratori di serie A e di serie B. E perché, secondo lei? Perché non sono sindacalizzati i dipendenti delle imprese artigiane e commerciali? No, sa, non c'è una sindacalizzazione come nell'industria, per cui cosa vuoi? Silenzio totale sia a livello regionale che a livello nazionale. No, così non va bene, assolutamente. E allora, come le dicevo, noi non possiamo far passarlo questo, assolutamente, perché non è giusto. Qui si lavano la bocca con la piccola impresa tutti i giorni, ha capito? E poi, quando ci sono da fare provvedimenti, si fa sempre verso senso unico, verso le grandi imprese, che prendono i soldi, perché questi non sono imprenditori, ma sono prenditori, ha capito? Prendono i soldi, prendono gli incentivi, prendono gli sgravi fiscali, e poi prendono e vanno via e ti lasciano, come sta succedendo adesso con la Zanussi, come sta succedendo con altre imprese di una certa calibro. Presidente Pozza, io metto a verbale, essendo questa radio di Confindustria, che sono molto d'accordo con lei. Ogni divisione del fronte del lavoro e dell'impresa per classe dimensionale o per associazioni di fronte a una crisi come questa, secondo me, è insensato. Detto questo, adesso, rispetto alla richiesta dell'INPS ai suoi iscritti, che dice ridateci i soldi, i tempi e le modalità per un'impresa che deve restituire quali sono? Ma allora guardi, in costi si parla dai 4.000 ai 6.000 euro per dipendente, in base alla qualifica professionale. Pazzesco, per aver dato lavoro pagare lo Stato, vabbè. Ecco, primo. Secondo, questa lettera non era una lettera un po' tecnica, rivolta all'interno, dove che metteva l'attenzione. Adesso vedremo il governo. Quindi non è ancora la circolare, non è ancora la procedura esecutiva nei confronti dell'INPS. Esattamente. L'INPS sa, anche il direttore dell'INPS del Veneto ha detto fate chiarezza su questa questione perché non sappiamo come comportarci, l'ha detto pubblicamente, capisce? Ma il fatto è che qui non si trattano di miliardi, capito? Non si tratta di aver fuori quei finanziamenti come hanno fatto per Alitalia, come hanno fatto per altre grandi imprese per la mobilità. Sono cifre che sono abbordabili. Se non sanno dove tirarli fuori, gli diamo noi la lista della spesa, dove tirar fuori i soldi, dove ci sono. Questo guardi, per esperienza so che il problema non è dove tirarli fuori, ma il fatto che poi loro decidano davvero di farlo. Detto questo, voi avete un ordine di grandezza approssimativo che dia l'idea a chi ci ascolta, e lo avrete detto immagino anche al governo, certo, del rifinanziamento sul 2013 di rapporti di lavoro, ripetiamolo, fatti nel pieno rispetto della legge del 2012, quanto bisognerebbe tirar fuori per rifinanziarlo? Almeno 50 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di 50 milioni, cari ascoltatori, a fronte di migliaia di posti di lavoro offerto con questa roba qua. Esattamente. Quindi sono cifre che si possono trovare in un bilancio da 800 miliardi di uno Stato oppure no? O diamo una certezza a questi imprenditori, oppure aspettiamo. No, ma io torno a sottolineare che se pensate, cari ascoltatori, con quale facilità nel giro di poche ore si sono tirati fuori 75 milioni dalle poste per coprire il fallimento dei soci privati di Alitalia, eccetera, eccetera, e due terzi di quello non si trova per rifinanziare le assunzioni agevolate di tutto il settore della piccola impresa italiana, si chiedono indietro i soldi. Ponetevi la domanda, voi che ci state ascoltando, anche se siete lavoratori dipendenti, anche se non avete perso il posto di lavoro da una piccola impresa artigiana o commerciale, è tollerabile una cosa simile? Secondo me no. Però la cosa che mi colpisce è questa circolare è arrivata con la politica che lo sapeva, secondo lei, oppure no? Certo, perché io già a marzo avevo denunciato che non era più stata rifinanziata. A marzo si sapeva già questo, solo che doveva passare sotto traccia, capito? Ormai si passano col rullo compressore sopra su tutto e quindi si pensava che anche questa volta qualcuno... Ah, quindi in realtà a voi del settore era stato detto nel corso del 2013 che il rifinanziamento ci sarebbe stato? Certo, no, a noi, quando abbiamo visto il bilancio dello Stato del 2012... Avete detto qua non la rifinanziate? Esattamente, abbiamo lanciato l'allarme, però non era stato colto da nessuno, ha capito? Addirittura io ero uscito dicendo ci tolgono i finanziamenti, ci fanno pagare la tassa di licenziamento, i 1.500 euro che tu devi versare per quando finisci il rapporto di lavoro, ancora a marzo, quindi non è che ci siamo svegliati dal mattino alla certo. sera, Però adesso è arrivata la circolare, siamo arrivati al dunque, capito, 25 di ottobre, e quindi si è scoperto di tutto, insomma. Perché è evidente che l'INPS ve l'ha mandata facendo conto che il Tesoro diceva: guardate, noi non rifinanziamo niente, e quindi mettetela prima di fine anno, poi si vedrà come se farle pagare. Guardi, a costo di accamparsi davanti al Ministero del Lavoro e al Palazzo Chigi, non gliela faremo passare. Faremo una mobilitazione, perché è una cosa vergognosa che in un paese civile accada questo. E poi siamo sotto elezione, che stiano attenti. Grazie a Mario Pozza, appello anche all'associazione di Confindustria. Condividete queste battaglie, inutile dividersi, perché lo Stato tratta così uno, perché tratterà così domani tutti. Impariamolo. A domani e buon ascolto su Radio 24.